sempre vado dove era tuo capriccio. Io non mi fiamo, era solo sesso. Ma schese il sesso un'attitudine. Estoy alucinado.